loro reportage. Giocattoli contraffatti. Se l'Europa aiuta bambini e imprese. Di Nazareno Orlandi. Gli orsacchiotti, le macchinine, i personaggi più amati di cartoni animati. Quanti di questi giocattoli sono stati scartati dai bambini proprio in questi giorni di festa? Regalo più gradito da trovare sotto l'albero. Ma non tutti gli oggetti con cui i nostri fratelli, i nostri figli, nipoti stanno giocando sono prodotti sicuri. Nel periodo natalizio si concentra il 60% delle vendite dei giocattoli ed è proprio in queste settimane che il fenomeno della contraffazione emerge in maniera più evidente. L'industria del falso genera perdite dirette e indirette ogni anno pari a 2 miliardi e 300 milioni per l'intera Unione Europea. Sono i dati diffusi dall'UAMI, l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno. In Italia ogni anno le minori vendite di giocattoli ammontano a 200 milioni e questo in termini di posti di lavoro si traduce in un calo del 14%. You got a friend in me. Sono ali di plastica, non può volare. Sono in lega teriglio carbonica e si dà il caso che io possa volare. No, non puoi. Posso. Bravo, fantastico. Quello non è volare, quello si chiama cadere con stile. Ma oltre all'aspetto economico, i giocattoli non certificati possono anche mettere a rischio l'incolumità dei bambini, perché magari prodotti con sostanze nocive o con piccole parti che si possono staccare. È per questo che l'Unione Europea ha provato a prendere le contromisure per salvaguardare uno dei settori nei quali si distingue per capacità innovativa. Nel 2009 è stata emanata la direttiva europea, recepita in Italia nel 2011, rivolta a produttori, negozianti, consumatori, normativa che ha fissato gli standard di qualità. Solo i produttori che rispettano questi criteri di conformità possono immettere i giocattoli sul mercato e quindi ottenere il marchio CE da riportare sul giocattolo o sulla confezione, indispensabile come anche l'indicazione dell'età del bambino al quale si rivolge quel prodotto. Quest'anno l'Europa ha scelto proprio il periodo natalizio per sensibilizzare le famiglie ad un acquisto responsabile e denunciare casi di illegalità. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. La normativa c'è, molto chiara e direi molto efficace. Ci sono delle campagne anticontraffazione, le ho condotte io quando ero vicepresidente della Commissione europea e continuo a condurre adesso come vicepresidente del Parlamento, ed è importante durante le vacanze di Natale sensibilizzare le famiglie, perché questo è il periodo durante il quale si vendono più giocattoli contraffatti, ed è importante anche l'operazione di contrasto che fanno i singoli stati nazionali, perché l'Europa dà delle norme e poi tocca agli stati nazionali far rispettare queste norme. Da questo punto di vista devo dire che il lavoro della Guardia di Finanza è lodevole, perché fra le polizie europee è quella che ottiene dei risultati di straordinaria importanza. Le batterie vanno sostituite, fai la rotazione dei giocattoli in fondo alla cassa e partecipate tutti al seminario di Mr. Spell sull'emergenza del bambino che ci inghiotte in tutto e in parte. Come sapete, a livello europeo è stata approvata una normativa che si chiama RICE, che garantisce la qualità delle sostanze chimiche utilizzate per la realizzazione di tutti i prodotti, compresi i giocattoli o altri prodotti. Nei prodotti contraffatti non si rispettano queste regole. Il prodotto contraffatto non viene venduto normalmente nei negozi. Questo significa che c'è un'evasione fiscale, quindi arrivano meno soldi nelle casse dello Stato, quindi aumentano le tasse per i cittadini. C'è una stima anche su questo? Le stime sono diverse da paese a paese, però parliamo di milioni di euro. C'è ultimo elemento che è preoccupante, che tutta questa vicenda viene gestita dalla malavita organizzata, sia essa italiana, cinese o di altri paesi. Quindi sono tutti soldi che arrivano nelle casse della malavita organizzata e in qualche caso anche collegata con malavita che poi si occupa di organizzare anche eventi terroristici. Non gioco più, me ne vado. Se quindi il Natale, come logico, è il momento dell'anno in cui si acquistano più giocattoli. La prevenzione e il contrasto non possono limitarsi al periodo dei regali. E infatti l'attività dura tutto l'anno. Nel solo 2015 la Guardia di Finanza ha sequestrato 12 milioni di giocattoli, oltre 9 milioni dei quali ritenuti pericolosi per la salute dei bambini. Molti di questi provengono dalla Cina. Il colonnello Davide Cardia, capo dell'ufficio operazioni del Comando Provinciale di Roma, ci ha spiegato come si combatte la contraffazione. I sequestri vengono effettuati prevalentemente nei negozi che non seguono delle filiere autorizzate di distribuzione, oppure in grandi magazzini dove, una volta arrivati dall'estero, vengono stoccati in attesa di essere distribuiti o ad esercizi commerciali teoricamente regolari, oppure a canali di distribuzione ambulante che spesso e volentieri non rispettano nessun tipo di prescrizione normativa. Se solamente 7.400 persone sono state denunciate nel 2014, quest'anno sfioriamo già le 8.000. Questo ci dà un'ulteriore conferma, tutti cercano di buttarsi nel business della contraffazione dei giocattoli, questo deve far tenere la guardia alta da parte di tutte le istituzioni. È chiaro che in un periodo come questo, destinato alle feste natalizie, nei maggiori centri si riesce a trovare un quantitativo maggiore di giocattoli, in particolar modo peluche. Il peluche di fatto rappresenta un oggetto di affezione per un bambino ed è quello che segue maggiormente la moda dei cartoni animati. Si produce in poco tempo, a bassi costi, con materiali di riempimento scarsissimi e scadentissimi, e viene rivenduto con un ricarico eccezionale. C'è anche un'attività di coordinamento europeo? C'è un'attività di coordinamento europeo, c'è un grande monitoraggio, oltre a una forte azione di indirizzo. Questo ci rafforza, anche perché l'intelligence che noi poniamo in questo comparto è forte anche del contributo che ci arriva dagli altri paesi dell'Unione Europea. Riuscire a fare uno scambio di informazioni efficace e idoneo a garantirci di conoscere il quadro che c'è in tutte le nazioni è l'unica arma che possiamo avere per poter porre in essere un'attuale ed efficace azione di distruzione di questa organizzazione. Su scala europea qual è il paese in cui il fenomeno si riscontra maggiormente? Beh, io posso dire che in Italia purtroppo siamo ai primi posti per questo tipo di attività, questo anche perché abbiamo degli importanti porti dove viene stoccata gran parte della merce che arriva dall'estero. Ciò non significa che siamo il paese meno virtuoso, anzi, come attività di contrasto forse siamo quelli che riescono a approfondire uno sforzo sicuramente remunerativo. Ci si accorge di un giocattolo contraffatto, cosa fare? Oltre ad evitare l'acquisto ci si può rivolgere al 117, abbiamo il nostro numero di pubblica utilità, su Roma lo abbiamo fortemente potenziato proprio in funzione della stagione giubilare ed è quindi possibile richiedere l'intervento di una pattuglia per tutte le attività che conseguono, anche il sequestro ed eventualmente la denuncia del rivenditore. Il suo marchio è CE, se si mette va tutto bene, è il robot dei ragazzi nelle strade. Ormai da qualche anno tormentone della campagna di sensibilizzazione europea è il robottino CEE. Quello che state ascoltando è proprio l'audio del video pubblicato sui siti ufficiali e su YouTube, con cui le istituzioni, in questo caso la Commissione, forniscono tutte le informazioni e i consigli utili da seguire. Sui giochi c'è anche l'età, è più comodo per mamma e per papà. Il marchio CE fa stare tranquilli, ma spesso anche questo certificato di garanzia viene contraffatto. Proprio su questo l'altro vicepresidente italiano del Parlamento europeo, David Sassoli, ha annunciato una proposta da portare all'attenzione di Bruxelles. Può essere un'idea quella di cambiare, di avere diciamo un turnover sul marchio, no? Di avere un marchio che magari ogni tanto può essere modificato, e questo naturalmente escluderebbe già di per sé dal mercato una grande quantità di contraffazione. E a volte si riesce a contraffare anche il marchio. Ma certo, tantissimi prodotti cinesi hanno il marchio CE, cioè Comunità Europea, magari è fatto male, però poi le persone non lo conoscono. E per c'è un po' di distanza in più tra la C e la E. C'è un po' di distanza in più, ma questo però già chi lo sa lo coglie, diciamo, questo particolare. Se invece ogni anno e mezzo il marchio commerciale dell'Unione venisse cambiato, questo naturalmente tirerebbe fuori una quantità di merce contraffatta automaticamente, perché sarebbe visibile a qualsiasi persona, anche quelli meno esperti. E questa è una proposta che si può lanciare? Lavoriamoci, e secondo me con l'ausilio e la collaborazione della Guardia di Finanza potremo a Bruxelles avanzare una proposta che tra l'altro potrebbe essere utile a tutti i 28 paesi, perché tutti i 28 paesi sono soggetti a contraffazioni sui loro prodotti. Poi c'è chi è più forte in alcuni settori come noi, c'è chi è più forte in altri settori. Il marchio di garanzia è un marchio a tutela dei prodotti di 28 paesi. scegliere solo i negozi di fiducia, acquistare giocattoli senza pezzi che possano essere ingeriti, denunciare l'illegalità. Consigli sempre utili per salvaguardare la salute sia dei propri bambini, sia delle imprese che lavorano senza aggirare le norme. La legge europea c'è, va fatta rispettare nell'interesse di tutti. E su questo non si gioca. Ehi Buzz, stai volando! Questo non è volare, questo è cadere con stile! Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.